anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti, appena finito di rispondere su WhatsApp a un ascoltatore, così. Lui sa. Allora, siamo qui per la rassegna stampa di 24 mattino, lo spazio di lettura dei quotidiani dedicati soprattutto a quello che è successo a Berlino. Come ha detto la polizia di Berlino, molto probabilmente un attacco terroristico di matrice islamica. Questo è quello che è successo ieri, ma non solo, c'è ovviamente anche quello che è successo in Turchia, le banche, Montepaschi. Bene, andiamo a vedere i giornali allora. È martedì 20 dicembre, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, banche, piano salva risparmio, interventi fino a 20 miliardi, questo è il titolo di prima pagina, ma c'è ovviamente anche Berlino, camion sulla folla al mercato di Natale, 9 morti. Ecco, questo ovviamente i morti purtroppo devono essere aggiornati rispetto ai titoli di giornali, pare che siano almeno 12 le vittime al momento accertate. Anche il Corriere della Sera, terrore al mercato di Natale, la strage di Berlino. Il Messaggero, strage al mercatino di Natale. Repubblica, Berlino, strage al mercato di Natale, camion lanciato sulla folla, 9 morti. La Stampa, Berlino, sangue sul mercatino di Natale. Per la verità, Berlino come Nizza, tir dell'ISIS fa strage tra la folla del Natale. Il Giornale, terrore islamico sul Natale. Per il Manifesto, terrore a Berlino. Il Giorno, Berlino, la strage di Natale. Mentre il Fatto Quotidiano, Jihad, il sangue sul Natale. E Libero, attacco al Natale. Come vedete, terrore a Berlino anche sull'Unità. I titoli sono davvero tutti simili. Colpito il Natale di Berlino è l'apertura di Avvenire. E allora voglio partire proprio da qui, questa vicenda che ci riporta nel terrore. Danilo Taino racconta da Berlino per il Corriere della Sera: il cuore del Natale di Berlino devastato, probabilmente da un attacco terrorista che ha fatto 9 morti e almeno 50 feriti. Ripeto, le cifre poi vanno aggiornate. Un camion è entrato a velocità sostenuta in un mercatino, quelli con le salsicce e il vino natalizio, dove i berlinesi passeggiano, si fermano, scherzano, respirano il senso delle feste più importanti dell'anno. Nel centro assoluto della parte ovest della capitale tedesca, sotto la chiesa bombardata nella Seconda Guerra Mondiale mai ricostruita a Memento, è arrivato questo camion. Un'altra guerra, si dicevano ieri sera i cittadini della città, non dal cielo, ma non meno spaventosa. Poco prima delle 8 di sera, un camion bianco e nero con una targa polacca è piombato nel mercato di Natale, ha travolto alcuni stand delle persone che stavano comprando i regali per i figli, per le loro famiglie. Arrivava, pare, dalla zona dello zoo ad alta velocità. Dopo aver colpito, il guidatore pare sia fuggito e poco dopo arrestato dalla polizia, così dicono le prime ricostruzioni degli eventi. Alle 10 di sera il sindaco di Berlino ha rassicurato: la situazione è drammatica, ha detto, ma sotto controllo. Un testimone ha raccontato che tutto era tranquillo. Cosa è successo? Beh, le ricostruzioni, pare che a bordo di questo camion ci fossero due persone. Una, il camionista polacco per l'appunto, peraltro partito dall'Italia e diretto in Germania. L'ipotesi è che il terrorista, o presunto terrorista, se si tratta di attentato terroristico come così sembra, abbia sequestrato il mezzo, forse ha ucciso l'autista polacco, o forse l'autista polacco è rimasto lì ed è morto nello schianto del camion. In ogni caso, si parla quindi di un dirottamento attentato, dirottamento di un camion. Il camionista killer, questo è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera. D'altronde, che ci fossero dei segnali d'allarme, sempre il Corriere racconta, in Germania ce n'erano. Guido Limpio: i tedeschi sapevano che la tempesta stava per arrivare. hanno alzato le difese, messo in galera persone sospette, intensificato i controlli, ma c'è sempre un buco che i terroristi possono sfruttare, specie se usano un veicolo. Solo pochi giorni fa, a Ludwigshafen, gli agenti hanno bloccato un ragazzino di appena 12 anni. L'ISIS lo aveva istruito per compiere un attacco contro un mercatino natalizio, usando bombe rudimentali riempite di chiodi. Un baby militante simile ad altri neutralizzati in Francia e in Germania. E insomma, è il doppio segnale di una tendenza. Primo, ricorso a minori nella speranza che non suscitino sospetti. Due, azione diretta in modo remoto da un referente in Medio Oriente. Un modus operandi mutato dopo gli attacchi dell'estate su un treno e un concerto. Azioni portate avanti da ex rifugiati, interpreti di un'offensiva che ha collocato nel mirino il paese europeo. Dunque la Germania che sapeva e ha alzato le misure di sicurezza, ma che purtroppo è stata colpita. Tra l'altro, sempre il Corriere della Sera fa sapere che Fiorenza Sarzanini a pagina 10, anche in Italia a questo punto si alzano le misure di sicurezza, due cellule attive e l'ordine dell'ISIS, così il Viminale ha alzato le difese. Un camion non desterà sospetti, ma farà più danni di un caccia e una carneficina di non credenti. Questo è il passaggio cruciale uscito in un articolo Tattiche di terrore pubblicato un mese fa dal numero della rivista Rumiyah, la rivista ufficiale dell'ISIS. Ed ecco dunque che si guarda appunto con terrore all'idea che alcuni lupi solitari, come vengono chiamati, possano in qualche modo sequestrare dei mezzi e colpire in questo modo. È per questo che anche gli 007 italiani, scrive il Corriere, dicono temiamo il ritorno dei combattenti dallo Stato Islamico, col fatto che l'ISIS perda terreno nei teatri di guerra. Il timore ovviamente ci sono anche sul terrorismo, sono blindati i gazebo natalizi, l'allerta c'è anche ovviamente in Italia. Ovviamente tutti i particolari poi li daremo nel corso della giornata. In tutto questo c'è da dire che se ci spostiamo un po' più a est, anche ad Ankara c'è stato un attentato terroristico vero e proprio, perché e tu questo tra l'altro tutto ripreso dalle telecamere, anche se non c'è il video proprio dell'uccisione, ma è successo in Turchia ad Ankara, nella capitale, dove un poliziotto 22enne turco, Mevlut Mert Altintas, ha freddato l'ambasciatore russo Andrei Karlov, che stava parlando tranquillamente alla presentazione di una mostra d'arte. E l'uomo che si è infiltrato, dicendo sono un poliziotto, mostrando il cartellino, da dietro gli ha sparato 8 colpi, urlando poi Dio è grande e rivendicando questo gesto per quello che i russi stanno facendo in Siria, ad Aleppo, la vendetta per la Siria. Ucciso ad Ankara l'ambasciatore russo. Marco Ansaldo racconta su Repubblica a pagina 6. 8 colpi sparati sulla schiena dell'ambasciatore russo da un poliziotto turco che sembrava proteggerlo alle spalle. E l'accordo nascente tra Mosca e Ankara su Aleppo, i curdi, la Siria, rischia di saltare. È la guerra del Medio Oriente che irrompe di prepotenza in Turchia, sconvolge la sua capitale, toccata non solo dall'uccisione del rappresentante diplomatico, oggi considerato più vicino a Erdogan, ma dalle voci su spari in serata vicino all'ambasciata americana. È stato un kamikaze isolato o un killer legato a un'organizzazione? L'attentato certamente ha modalità del tutto inedite. Sono quasi le 7 ad Ankara, il gelo spazza la città, c'è un po' di folla alla Galleria d'Arte Contemporanea in pieno centro. L'occasione è una mostra fotografica. Il video, girato da un cameraman, mostra quadri ben distanziati alle pareti bianche, tavolini per l'aperitivo, il microfono della CNN Turk davanti all'ambasciatore Andrei Karlov, 62 anni, diplomatico esperto già a distanza in Corea del Nord, da 3 anni in Turchia, pedina fondamentale del dialogo tra Putin e Erdogan. L'alto diplomatico sta parlando. L'attentatore è Mevlut Mert Altintas, 22 anni, il giovane che gli sta alle spalle, entrato con un tesserino della polizia, giacca e cravatta scura, ben sbarbato, all'improvviso gli spara ripetutamente, lo crivella di colpi e altre 3 persone rimangono a terra. Poi inneggia Allah è grande e urla «Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui». parla ancora un minuto. Non dimenticatevi di Aleppo, non dimenticatevi della Siria. Vendetta agita la pistola, quindi viene abbattuto dalla polizia turca. E ci sono queste immagini drammatiche proprio del corpo dell'ambasciatore e questo uomo vestito, è tutto in scuro, pare James Bond, veramente, pare un film, ma è tutta realtà, che da dietro urla e agita la pistola. Tra l'altro, proprio in questi giorni ad Aleppo si sta consumando un dramma umanitario da un bel po' di tempo, per la verità, e Giampaolo Cadalanu lo racconta molto bene a pagina 4 di Repubblica, racconta dell'evacuazione dei civili che tentano di fuggire da Aleppo martoriata e in parte vengono anche uccisi. L'ultima fuga, migliaia di civili lasciano la città, servono 900 autobus, dicono, e Repubblica racconta anche il travaglio di queste persone che stanno cercando di lasciare con difficoltà la Siria. Guardate, se rimaniamo sul tema terrorismo internazionale, voglio anche saltare sul Giornale. Questo è l'articolo anche che mi fa più arrabbiare della giornata. Già, come vedete, ce ne sono tanti. L'articolo da mani sul volante, perché c'è una condanna che riguarda anche un'italiana che si è convertita all'Islam, che è andata a combattere in Siria, è scomparsa in questo momento. Maria Giulia Sergio, detta Fatima, prima jihadista italiana a venire condannata come foreign fighter, cioè combattente all'estero, condannata a 9 anni. Cristina Bassi racconta, pagina 20 del Giornale, è la prima jihadista italiana che ha questa sentenza, una storica sentenza dunque. 9 anni di carcere per Maria Giulia Sergio, Fatima, come aveva chiesto la procura. È la prima condanna di un foreign fighter, una foreign fighter in questo caso italiana, fuggita da Inzago, le porte di Milano, prima connazionale di cui si sia saputo partita per combattere nelle file dell'ISIS, 29 anni. Così Maria Giulia è stata condannata, con lei condannati per accuse a vario titolo di terrorismo internazionale, il marito albanese Aldo Kobuzi, a 10 anni, la donna di origine canadese che l'avrebbe introdotta all'Islam radicale, Haik Bushra, 9 anni, la madre e la sorella del marito, Donica Kociu e Seriola Kociu, entrambe condannate a 8 anni. Infine condannato anche il padre di Fatima, Sergio Sergio, condannato a 4 anni. Eccola qui, Fatima condannata a 9 anni, è la prima jihadista italiana. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, ricordati, mani sul manubrio. E allora eccoci anche mani sul manubrio, se volete, se siete in bicicletta, alle 7:33 minuti. Cari ascoltatori, allora, dopo questo inizio, insomma, tra Berlino, Ankara, un po' di terrore qua e là sul Natale, dobbiamo parlare della politica italiana e di tanti altri temi che ci sono sui giornali. Intanto Milano e Roma, le due città che sono sotto più attenzione, e anche la questione politica, il rapporto all'interno del Partito Democratico, quello che ha combinato per esempio Giachetti, che ha dato della faccia da culo a Roberto Speranza. Giachetti che rilascia un paio di interviste, una al Corriere della Sera, una al Foglio. Dice al Corriere della Sera Giachetti: ho sbagliato, mi è partita la frizione, che devo fare ora? Intervistato da Monica Guerzoni a pagina 15. Beh, dovrebbe scusarsi Giachetti. L'ho fatto pubblicamente, quando incontrerò Roberto Speranza, che è un amico, chiederò scusa pure a lui. Sono un essere umano con le sue debolezze, fragilità, posso sbagliare, ho avuto uno scatto d'ira, ho perso la brocca. Prova ne sia che il fatto che durante la campagna contro la Raggi fui accusato di essere rimasto fin troppo dentro i limiti. Ma cosa le ha fatto perdere la brocca? Beh, aver sentito dire da Speranza che il Mattarellum è cosa loro e noi dovremmo adeguarci. Per il Mattarellum io ho fatto 2 scioperi della fame, mentre lui da capogruppo ha contribuito a bloccarlo. L'ho vissuta come una provocazione sulla carne viva. Questo dice al Corriere della Sera. Al Foglio Giachetti va un po' più oltre e spiega anche la genesi forse di questo linguaggio. Giachetti definito colui che è diventato lo scorrettissimo eroe del parlar chiaro o del parlar sporco. Vengo dal Partito Radicale, dice Giachetti, e sono cresciuto lì, e lì, come noto, non si dissimulava niente, le cose ce le dicevamo in faccia con limpidezza, anche ruvida, eccessiva. Per me il parlar chiaro è anche una forma di rispetto, perfino etico, se mi è consentito tirar fuori una parola così densa. Dunque forse mi è scappata la frizione, va bene. Forse ho usato un'espressione volgare, anche se non più volgare dei riferimenti al ducetto di Rignano, che da più di un anno vengono scagliati contro Renzi, o alla puzza di riforme di cui parla D'Alema. Va bene, l'ho detta forte, ma ho anche detto quello che pensavo e quello che pensano e sentono in tanti in giro per l'Italia, non solo a Roma. Ho violato le regole dell'ipocrisia, ma il problema che ho posto rimane piantato come un chiodo nell'anima di questo PD. È immaginabile l'esistenza di una comunità politica nella quale c'è qualcuno che, poiché è in minoranza, rifiuta sistematicamente le decisioni prese nelle sedi democratiche del partito e stabilisce di avere il diritto divino di fare quel che vuole? Ecco, questo è il problema che ha fatto sbroccare Giachetti, uso il suo stesso termine, visto che dice ha perso la brocca, e gli ha fatto dire quell'epiteto nei confronti di Roberto Speranza. In tutto questo, mentre la politica si interroga su ciò a Roma, nell'amministrazione comunale, si vive questo terremoto che ha coinvolto la giunta del Movimento 5 Stelle, il sindaco Virginia Raggi, e che cerca ora di mettere una pezza a tutto questo. Se ricevo un avviso di garanzia, valuterò. Questa è la frase chiave del giorno, perché si parla di un avviso di garanzia anche per Virginia Raggi, che ha tentato di ricomporre la situazione in giunta. Intanto con la nomina di un vice sindaco, Bergamo, però ha dovuto cedere a una sorta di diktat, fa sapere per esempio La Stampa con Federico Capurso e Ilario Lombardo a pagina 9. Il diktat di Beppe Grillo è stato questo: per sostituire Muraro, assessore all'ambiente, ha dovuto Virginia Raggi accettare Pinuccia Montanari. Raggi aveva tenuto per sé le deleghe, sperava di sostituire la Muraro con una sua fedelissima e invece ha dovuto accettare appunto la scelta di un'esterna del Movimento 5 Stelle, in qualche modo fanno sapere i giornali, imposta da Casaleggio, imposta da Grillo, che indica l'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari, che ha avuto lo stesso incarico a Genova. Tra l'altro il Corriere della Sera va nei dettagli, per esempio Marra, che è stato arrestato e che oggi verrà interrogato, e tutti quindi a dire parlerà, non parlerà, cosa parlerà, cosa dirà, e questo lo vedremo. Marra si è scoperto anche che anche la sorella lavora al comune, in Campidoglio anche la sorella. Questo almeno Fiorenza Sarzanini a pagina 17 lo rivela, la stessa sindaca a Cantone, che interverrà sul fratello del funzionario arrestato, quindi anche la sorella lì. Vabbè, la vicenda comunque politica di Roma è una vicenda nettamente in evoluzione. Ma ora ci dobbiamo concentrare su quello che ha detto il ministro Poletti, ministro del lavoro, che finisce oggi su tutti i giornali per una polemica, uno scambio di battute con i giornalisti a Fano, una frase forse sfuggita. Tutti i giornali raccontano l'ennesima gaffe di Poletti, che stava parlando di giovani e lavoro e giovani che vanno all'estero, i famosi cervelli in fuga. Attenzione, io lo dico perché so che ci sono tantissimi che ci ascoltano dall'estero, il nostro bottino, il nostro tesoro, tantissimi ascoltatori che sono andati all'estero, che sono andati a lavorare, che ci ascoltano con l'app, ci ascoltano dal sito. Udite, udite, cari emigrati, che cosa ha detto il ministro Poletti? Giovani in fuga? Conosco gente che è meglio non avere tra i piedi. Io non lo so, magari avevamo un nipote che gli stava sulle scatole, che un fannullone, un poco di buono. Testuale, cioè ha fatto un ragionamento più complicato il ministro Poletti. Ha detto: bisogna correggere un'opinione secondo cui quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. E su questo si può essere anche d'accordo, non per forza se ne vanno i migliori. Se ne vanno 100.000 e ce ne sono 60 milioni qui. Sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti dei pistola. La pistola, insomma, in dialetto, no? Ma buoni a nulla, ecco, mettiamoli qui. Permettetemi di contestare questa tesi, ha detto il ministro, e poi ha aggiunto quella che è appunto la gaffe. Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente l'Italia non soffrirà a non averli più fra i piedi. Vabbè, anch'io posso dire, conosco una persona che era un disgraziato ed è meglio che se ne stia dove sta all'estero. Però è chiaro che, messa in bocca al ministro del lavoro, subito ecco che i giornali, il potere li vede così, bamboccioni e sfigati, il commento del giorno. Ovviamente su tutti i giornali c'è questa frase, riecco Poletti, insulti ai giovani per il Fatto Quotidiano, la verità, Poletti e i giovani in fuga all'estero, meglio non averli fra i piedi. Insomma, i titoli sono tutti per Poletti. Anche il Buongiorno di Massimo Gramellini, cervello in fuga, il ministro del lavoro, sono in prima pagina della Stampa, ministro con delega alle figuracce, Giuliano Poletti ha deciso di sfatare a parole, non solo con la sua presenza, l'affermazione retorica secondo cui sono sempre migliori quelli che se ne vanno. Lo ha fatto con l'eleganza e il tatto che lo contraddistinguono fin da quando spernacchiava come scansa fatiche i laureati ventottenni, per la gioia degli specializzanti ancora curvi sui libri a quell'età. Poletti ha cominciato col dire che se 100.000 se ne sono andati, non è che qui sono rimasti 60 milioni di pistola. E i maligni hanno subito pensato che la volesse mettere sul personale. Poi l'uomo delle cop rosse ha tirato l'affondo. È un bene che certa gente se ne sia andata. Un mio amico, il cui figlio, laureato in ingegneria col massimo dei voti, ha appena accettato un posto a Londra, forse perché suo padre non aveva da offrirgliene uno nella Lega delle cooperative, si è leggermente risentito. Temo non abbia colto la delusione nascosta tra le pieghe della raffinata ironia ministeriale. Poletti non si capacita di come possano essere 100.000 giovani così ingrati e antipatriottici da accettare un lavoro regolarmente retribuito all'estero piuttosto che immergersi nell'esilarante girandola italica dei voucher da lui promossi. Siamo in tanti a pensare che sia un bene che se ne siano andati, un bene per loro, mentre è un male che il ministro del lavoro di un paese con il record di disoccupati e precari rimanga ancora al suo posto a sparare pistolettate. Così Gramellini. Gramellini, che tra l'altro passerà il Corriere della Sera. Ho scoperto questa cosa, a febbraio 2017 passerà dalla Stampa al Corriere della Sera. Allora, ma a proposito di di Pisa, a proposito di Pisa, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, ma casomai a proposito di Siena, visto che va bene anche di Siena di oggi. No, ecco. È che stavo a proposito di Pisa. Sì, ma... no, si è capito benissimo, non peggiorare la Se vuoi lo rispiego. No. Invece leggi il Sole 24 Ore per quanto riguarda, ad esempio la vicenda MPS e questa conversione, questa fase di conversione. Allora, due cose: da una parte l'ombrello, come è stato definito, dello Stato, ti spieghiamo che cosa si è deciso ieri, e c'è la necessità di una copertura da 20 miliardi, tu metti i soldi di due urini? Sì. Continui a metterli ovunque, però, non è che sono sempre gli stessi, perché poi si capisce dopo un po' questa cosa. Faccio dei giroconti così. Ma vabbè, comunque ti segnalo anche, come bussola del risparmiatore, Vito Lops, le scelte possibili per chi ha questi bond, queste obbligazioni subordinate del Montepaschi. Tutto questo a pagina 8 del Sole 24 Ore. E poi, visto che parlavi di questioni lavorative, ti segnalo come articolo da meditazione, però, l'articolo che riferisce dell'andamento del lavoro precario in Italia. In calo i nuovi contratti stabili, che sono sì cresciuti ma molto meno rispetto all'anno scorso, e l'aumento dei voucher, ti spiega tutto Claudio Tucci, la pagina 12 questa volta del Sole 24 Ore. Se poi volessi andare all'estero, caro Alessandro, sì, ti potrei consigliare effettivamente l'Irlanda. No, ti vorrei consigliare l'Irlanda, perché oggi, anzi ieri, e ne riferiamo oggi, la Apple ha deciso di presentare ricorso contro la possibile sanzione della UE, perché pare che avessero pagato lo 0,005, mi pare, per cento sugli utili come tasse, che non mi sembra malissimo come tax rate. Beh, che dici? Non è male. 0, sicuro che non c'è uno zero ancora dopo la virgola? No? Mi pare di no, perché dovrei averli contati giusti. Però tu leggi sul Sole 24 Ore di oggi che gli indici sono sicuramente giusti. No, il fatto però da approfondire e su cui meditare è che anche il governo irlandese si lamenta della decisione della Commissione, dice no, noi, questa è un'ingerenza bella e buona nei nostri affari fiscali. Quindi è una, si parlava di possibile armonizzazione, lotta ai ruling troppo generosi, questo invece è quello che vediamo accadere. Oh, ti voglio dire poi che abbiamo l'ultimo inserto con i contenuti della legge di bilancio, con i bonus per le agevolazioni per la famiglia, ad esempio il bonus per i nuovi nati, e poi anche la possibile multa invece delle autorità statunitensi a Deutsche Bank, 14 miliardi era stata la prima cifra trapelata. Ci siamo quasi, leggi avidamente finanza e mercati. E tutto ciò premesso, caro Alessandro? Tutto ciò premesso? Traffico! Ah, ecco. Alessandro Milan, il gioiello más precioso della corona, ti aspetto al mio compleanno! Va bene. God save the Queen! Va bene, va bene. Va bene, va bene. Allora, diceva appunto Mauro Meazza la questione Montepaschi. Voglio leggere qualcosa dell'articolo di Luca Davi e Marco Ferrando, perché su tutti i giornali, e cioè il piano privato ormai è in bilico, si guarda al salvataggio dello Stato. Si parla di questi 20 miliardi, come ci ha detto Mauro. Allora, il Montepaschi prosegue nel tentativo di raccogliere i 5 miliardi necessari al salvataggio, ma il tempo è pochissimo. L'operazione è tutt'altro che agevole, l'ingresso dello Stato sembra sempre più vicino. E la decisione del governo di ieri di prepararsi a aprire il paracadute pubblico suona come una conferma in questa direzione. Il presidente della banca, Falciai, dice: tutto procede come previsto, in effetti la macchina va avanti, il problema è la strada stretta e in salita e anche il pochissimo tempo a disposizione. Nella prima giornata di aumento di capitale lampo da 5 miliardi, il titolo ha subito in borsa una frustata violenta, tanto da chiudere in calo dell'11,04%, toccando il minimo delle ultime 9 sedute, movimento che gli osservatori spiegano essere frutto di un primo assestamento del mercato. E dunque si parla appunto di questi possibili 20 miliardi che lo Stato è pronto a mettere. C'è un'altra vicenda finanziaria che sta scuotendo i mercati e sta facendo rivedere gli assetti finanziari del paese, vale a dire la vicenda Vivendi, la vicenda Mediaset, perché Vivendi, francese, dice a noi il 30% di Mediaset. Sara Bennewitz racconta su Repubblica: Vivendi mette sul piatto altri 400 milioni di euro, si prepara a salire al 30% di Mediaset. Dopo che non è riuscito a trovare un accordo amichevole con Berlusconi, il colosso francese dei media punta su una fiche da 1,2 miliardi sulla TV commerciale tricolore. Scommette che con un simile investimento anche Fininvest sarà costretta a più miti consigli. L'annuncio di ieri in tarda serata lascia tutti di stucco, dal ministro Delrio, secondo cui la vicenda è poco chiara, alla stessa Fininvest che, dopo aver precisato che il comportamento aggressivo di Vivendi è viziato da irregolarità e gravi violazioni, chiamando in causa la Consob, ha fatto sapere di essere pronta a intraprendere vie legali sul piano civile, penale e amministrativo. Resta invece in silenzio Mediaset, che oggi ha in agenda un consiglio per la strategia. Certo, nella retroscena di Ettore Livini, Berlusconi viene definito all'angolo, punta al congelamento dei voti di Bolloré. Racconta Repubblica: l'arrocco, le battaglie legali alla fine non sono servite a nulla. Vincent Bolloré, come previsto, tira dritto per la sua strada. Non aspetta che gli avversari, Mediaset da una parte, il governo, il sistema Italia dall'altra, si organizzino e arriva fino alla soglia dell'OPA su Mediaset. Il bretone ha raggiunto il primo obiettivo. La famiglia Berlusconi è sotto scacco e con le mani quasi legate. Aprire negoziati tra le due parti è quasi impossibile. E dunque ora si vedrà. Per la famiglia, racconta Repubblica, per la famiglia Berlusconi sembrano esserci due opzioni: trattare la resa lasciando la gestione, oppure battagliare sul mercato per alzare il prezzo. Ma comunque questa battaglia finanziaria è una battaglia che sicuramente insomma animerà da un certo punto di vista anche il Natale. In tutto questo, signori, In Regione Campania arrivano le pensioni d'oro. Tornano meglio le pensioni d'oro. Siete contenti? Se siete consiglieri della Regione Campania dovreste essere contenti. Se non siete consiglieri della Regione Campania non lo sarete moltissimo. Il giornale De Luca compra i politici. Tornano le pensioni d'oro. Il Fatto Quotidiano. De Luca fa un regalino ai suoi. Vitalizi anche agli assessori. Per la verità, come racconta Vincenzo Iurillo sul Fatto a pagina 6, il blitz è avvenuto con un emendamento abrogativo mascherato sotto buoni propositi di riduzione dei costi della politica, tanto che l'emendamento parla di soppressione degli assegni vitalizi. In realtà, raccontano i giornali, con questa soppressione degli assegni vitalizi si sostituisce e si equipara il sistema previdenziale dei consiglieri della campagna a quello dei deputati. Ed è una pacchia. Infatti la quota di contributo a carico del consigliere è dell'8,80% della quota imponibile, la quota a carico della regione è del 24,2%, cioè 2,75 volte la quota a carico del beneficiario, mentre per i lavoratori dipendenti il rapporto è di 9,10 a carico del dipendente e 21,5 della retribuzione lorda a carico del datore di lavoro. In sostanza si trasferisce a Napoli una iniquità contributiva studiata solo per i parlamentari. Secondo sommari calcoli, il risultato è che la norma doveva sopprimerli e invece la pensione per chi siede per 5 anni in consiglio in giunta, quindi anche gli assessori, sarà da 700 a 1500 euro. Ale! Siete contenti? No, se non siete consigliere della Regione Campania, direi di no. Va bene, c'è anche da dire che dopo la notizia scoop che ieri sul Corriere della Sera, secondo alcuni, potrebbe riaprire il caso di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi e la condanna a 16 anni di Alberto Stasi, oggi ovviamente i giornali cercano di capirne qualcosa di più. Si parla di un DNA di una persona che non è Alberto Stasi sotto le unghie e nei bicchieri, insomma, trovato a casa di Chiara Poggi. Si parla del pianto di Alberto Stasi in carcere che ora dice finalmente torna a sperare. Tutti i giornali oggi però intervistano la madre di Chiara Poggi, Rita Poggi, che dice mi creda. Si arriva a un punto in cui la parola giusta da dire è basta. C'è la sentenza definitiva, è stato tutto controllato 10-100 volte, per noi il caso è chiuso, il colpevole è Alberto. Basta. Questo è l'inizio per esempio dell'intervista di Giusy Fasano a pagina 27 del Corriere. È stato un altro giorno difficile. Se la famiglia di Stasi ha un nome diverso, lo facciano. Se hanno delle prove, le mostrino. Davanti a una prova certa, noi non chiuderemmo gli occhi. Non l'abbiamo mai fatto, ma di prove certe qui io non ne vedo proprio. E tra l'altro si parla di questo Mister X, questo ragazzo che all'epoca aveva 20 anni all'epoca dell'omicidio, che in questi anni non ha precedenti penali, ha un lavoro, ha lavorato tranquillamente, ha avuto una vita tranquilla e sarebbe lui col suo DNA, chi è non si sa bene, ovviamente i giornali non lo dicono, ma è una persona che è stata interrogata all'epoca, questo raccontano i giornali, il suo DNA sarebbe stato trovato a casa di Chiara Poggi. Vedremo anche questi sviluppi. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Torniamo sul Fatto Quotidiano, dove Virginia Della Sala racconta che dopo i Pokémon Go arriva la nuova mania, che è Super Mario Run, che rincorre ora Pokémon Go. Chi vincerà tra Super Mario e Pokémon Go? Ma chi se ne frega!